Essere e benessere di Nicoletta Carbone. So che molti di voi mi stanno ascoltando in auto e allora oggi vi chiedo un passaggio. Sì, perché vorrei proprio parlare con voi che siete in viaggio, nel traffico, in autostrada, lungo le statali del nostro bel paese e capire che cosa vi succede quando siete al volante. Se avete il viva voce o l'auricolare, chiamatemi subito 800 24 00 24. Trasformatevi per questa ora in un inviato di Essere Benessere. Tasteremo il polso degli automobilisti in diretta e anche il livello di stress, che è piuttosto altino. Aggressività, ansia e stress sono i compagni di viaggio degli automobilisti e bastano 20 minuti nel traffico perché le conseguenze si facciano sentire. Sono alcuni dei risultati di una ricerca realizzata dall'istituto di ricerca inglese ECM Research per conto di TomTom, che ha visto coinvolte 9.865 persone tra i 18 e i 64 anni di 11 paesi europei. 8 italiani su 10 affermano di passare quotidianamente nel traffico più di 30 minuti della loro giornata. Per il 35% lo stato d'animo prevalente è di rassegnazione, mentre il 30% si dice esplicitamente stressato. Un italiano su 3, 30%, mette il traffico al primo posto in assoluto in quanto fonte di stress, più della seduta dal dentista, 27%, del rientro dalle vacanze, 14%, e del proverbiale pranzo coi suoceri. E in linea con noi Salvatore Patriarca, responsabile editoriale di Salute 24, un portale amico di Essere Benessere che ha dedicato spazio a questa notizia. Salvatore, ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Salvatore, ti ritrovi nella descrizione della ricerca? Ah sì, assolutamente. Io sono con quel 35% che è rassegnato quando si trova in macchina. Cioè accetto passivamente tutto quello che accade. Senti, ma non ti arrabbi mai? Mi arrabbio soprattutto quando rischio di essere poi in ritardo, perché è questa la cosa più preoccupante, soprattutto per me che vivo a Roma, che abbiamo un problema atavico con il parcheggio, quindi quando sei in macchina e devi lasciarla non sai veramente che cosa fare. Quindi io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. Io passo metà della mia vita in macchina e l'altra metà la passo a cercare un lurido, fottuto posto per parcheggiarla. Trovare un parcheggio è un calvario. Mi tocca girare per ore. E quando finalmente avviene il miracolo, perché di miracolo si tratta, che io vedo dall'atrio vetrato di un condominio una persona che dal movimento della mano verso la tasca pare di intuire che all'interno della tasca stessa ha un mazzo di chiavi di una macchina parcheggiata fuori, io lo punto e non lo mollo più. Gioele Dix, l'automobilista e a voi che cosa fa arrabbiare? C'è qualcuno che lo sta facendo in questo momento? Magari il vostro vicino vi ha tagliato la strada? La signora davanti a voi non si è accorta che è scattato il verde? Oppure il classico furbo che vi ha fregato il parcheggio? Ci sono proprio anche quelli che scendono per tenere il posto all'amico, così che devi passare sul loro corpo per infilare la macchina. Chiamateci che ci pensiamo noi. 800 24 00 24. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ci sono persone che al volante si trasformano. Salvatore. Beh sì, in parte anch'io. Io ho adottato da qualche anno questa tecnica, che quando entro in macchina alzo il finestrino, indipendentemente che sia estate o inverno, e dico le parolacce mentre guido. Cioè l'85% delle mie parolacce della giornata sono quando sono al volante. Veramente? Anche quando hai qualcuno con te? Diciamo che lo premetto quando ho qualcuno con me e cerco di limitarmi, però non è detto che quando c'è proprio tanto traffico qui in città a Roma, neanche quando ci sono persone, riesco a trattenermi più di tanto. Ecco. Senti, vorrei capire che cosa ne pensa il dottor Paolo Cavedini, che è qua in studio con me, è psichiatra, professore del master di neuropsicologia dei disturbi emotivi e comportamentali, quindi fa proprio il caso nostro, dell'Università LUMSA di Roma. Buongiorno intanto. Buongiorno e grazie per essere con noi. E Salvatore ci ha appena raccontato una cosa abbastanza frequente: ci sono persone che proprio diventano altre quando sono al volante. Beh, la macchina è un po' il nostro micromondo, è un ambiente molto protetto in cui è facile abbassare un pochino i freni inibitori e lasciarsi andare, soprattutto perché non si temono troppo le conseguenze di quello che facciamo, no? Ci sentiamo da soli nonostante siamo in mezzo al traffico, in mezzo alle situazioni insieme ad altri tanti automobilisti. E noi infatti chiediamo proprio agli automobilisti di raccontarsi, di raccontare chi stanno vedendo vicino a loro all'800 24 00 24. Ma Salvatore, la ricerca di cui stiamo parlando e a cui voi avete dedicato spazio racconta che queste ore passate nel traffico, immerse quindi in questa atmosfera un po' pesante, si ripercuotono anche sulla nostra salute. Eh sì, fanno male, perché oltre a quelli che possono essere appunto le conseguenze di natura psicologica, quindi stress e tensioni, ci sono anche ma dei dolori molto più concreti, che possono essere delle difficoltà respiratorie, dei dolori muscolari per il fatto che si tiene una posizione per troppo tempo, mal di pancia, quindi bisogna stare attenti anche su queste problematiche. Io vorrei chiedere al nostro dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che è in linea con noi. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie, un saluto agli ascoltatori. Ma insomma, c'è proprio il malessere dell'automobilista, siamo davvero messi male? Beh, siamo messi male perché in realtà la posizione che assumiamo in macchina non è una posizione fisiologica, quindi siamo seduti, magari un po' compressi, con dei sedili che non sempre sono adeguati, non sempre hanno il sostegno lombare che è indispensabile, non sempre la distanza fra il nostro corpo e i pedali, quella che dobbiamo fare per raggiungere con i piedi i pedali della frizione, dell'acceleratore, del freno, è quella corretta, e non è corretta la posizione delle braccia magari che teniamo sul volante, un finestrino aperto poi dove appoggiamo il gomito in estate se non abbiamo l'aria condizionata e questo flusso d'aria che ci arriva addosso, o peggio un'aria condizionata male orientata, quindi molto freddo all'interno dell'abitacolo e molto caldo fuori, sbalzi di temperatura salendo e scendendo. Insomma, direi che di motivazioni per star male ce ne sono tante. Su queste però bisogna cercare di intervenire correggendo soprattutto gli autisti professionisti, quelli che stanno molte ore in macchina, correggendo quanto più possono assetto, posizione di guida, sedile. Insomma, la macchina è uno strumento di lavoro per queste persone e come tale deve essere ergonomica, cioè deve essere adattata all'organismo. Salvatore, prima di salutarci... Sì, cioè proprio riferendo alla questione del sedile, c'è una ricerca molto carina che abbiamo pubblicato questa mattina su Salute 2024, fatta dall'Università di Aachen in collaborazione con Ford Europa, secondo la quale loro hanno sviluppato un sedile che monitora l'attività cardiaca, una sorta di elettrocardiogramma continuo, senza bisogno di avere contatti con la pelle del guidatore, e grazie a questi sensori si riesce a tracciare in qualche modo il 95% dei battiti e mandare segnali possibilmente anche al medico per cercare di capire se ci sono problemi in arrivo da un punto di vista cardiovascolare. Dottor Gargiulo, le piace questa cosa? Da morire, voglio andare alla Ford e voglio subito un sedile così. No, che sembra uno spottone, ma dottor Gargiulo, però è una cosa intelligente, la ricerca certo, insomma ci certo. Accompagna, ci segue anche per vivere meglio nel quotidiano. Salvatore, a proposito di quotidiano, ti lascio il tuo lavoro quotidiano. Grazie Nicoletta, un saluto a tutti i radioascoltatori. Senti, mi raccomando con le parolacce, ma un giorno voglio farmi un giro in macchina con te, ti registro. Quando vieni a Roma lo facciamo sicuramente. grazie a Salvatore Patriarca. E noi andiamo a Paola, che ci chiama da Biella. Buongiorno, la nostra prima inviata. Buongiorno Paola e benvenuta. Buongiorno, io volevo dare un segnale positivo. Sì. Io ho 53 anni, faccio la personal driver, quindi faccio la sarta a domicilio e faccio 60.000 km all'anno. Ho una piccola macchina, ma io adoro andare in macchina perché... oggi vedo la possibilità anche quando c'è il traffico, beh, io ho un cambio automatico, quindi è molto più rilassante guidare col cambio automatico anche in città, ho una macchina piccola che si può spostare facilmente, e quando c'è traffico si ascolta la radio, c'è il telefono, si possono fare un sacco di cose se uno deve aspettare in fila. E in più i tuoi occhi guardano il mondo anche da un altro punto di vista, quindi essere capaci di guardare la bellezza anche in mezzo al traffico significa gestire il tuo stress. Lo stress secondo me è una situazione che non si conosce, dato che noi lo conosciamo il traffico. Possiamo affrontarlo. Paola, tra l'altro lei è proprio un esempio chiaro di quanto dicono anche le ultime ricerche, quelle più recenti. Per anni ci siamo sentite dire donna al volante, pericolo ambulante, vacante, eccetera. In realtà si è visto che le donne sopportano di più lo stress alla guida. Professor Cavedini. Assolutamente sì, l'esempio della nostra ascoltatrice è il classico esempio in cui il problema viene risolto a monte. Lei gestisce molto bene con un atteggiamento positivo lo stress, usa la distrazione al volante, quindi la musica piuttosto che le situazioni guardando il panorama, per abbassare il livello di tensione, e inevitabilmente questo diventa uno modo positivo di vivere anche la guida. Voglio leggervi un ascoltatore, Stefano di Udine, che ci scrive: non sopporto coloro che per cambiare strada prima inchiodano e poi mettono la freccia. In quei momenti vorrei guidare uno schiaccia sassi. Patrizia, buongiorno dalla provincia di Como. Oh, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Io sono in giro e faccio cabaret e soprattutto reputo, mi dico, che uso l'educazione, i sorrisi, do la precedenza anche se ce l'ho io, rallento, faccio uscire qualcuno dalle stradine traversali, sorrido addirittura ai pedoni quando li faccio attraversare e quegli altri automobilisti mi trombazzano dietro, perché sì, cioè solo all'estero bisogna far fermare, perché in Italia appena rallenti per il pedone, allora io fermo la macchina, scendo, vado dietro e chiedo perché ha suonato, se ci conosciamo, tutte così. Dai, ma e loro come reagiscono? Hanno le crisi isteriche, perché gli arriva questa, gli chiede ci conosciamo, perché sa, mi ha suonato e dice ah, ma lei si è fermata, dico grazie, schiaccio il pedone, lo investo, volo, scusi, ai verdi, quando scatta il verde allora fermo, vado a chiedere se ci conosciamo perché ha suonato, se qualcuno fa qualche rotonda sbagliata, perché le rotonde nessuno ha capito come bisogna affrontarle, nessuno, le mitiche rotonde, allora io li rincorro, avendo fatto rally su pista all'età della pietra, sì, da giovane, li rincorro, li fermo e gli spiego come deve essere affrontata una rotonda. Lì è il mio sfogo isterico, ma lo faccio proprio stile cabarettista, no? Guardi che lei, ma l'ho fatto anche 20 minuti fa. Patrizia, questo... rimanga con noi in linea, e nel caso se qualche cosa capita vicino a lei, se incontra qualcuno, eccoci, chiami, che così lo invitiamo in diretta. 800 24 00 24. Dottor Gargiulo, Patrizia ci racconta una strategia che io utilizzo spesso, perché io spesso faccio, io non mi arrabbio, spesso faccio arrabbiare magari gli altri, e allora per spegnere, no, l'arrabbiatura degli altri, tante volte basta un sorriso, dare ragione. Ma effettivamente sì, ma anche perché io mi chiedo come mai noi che siamo tanto educati, quando davanti ad una porta ci fermiamo e facciamo passare una signora, perché non siamo altrettanto educati magari fermando un attimo la macchina e facendo transitare il vicino? O peggio ancora, perché siamo così maleducati che quando il semaforo è verde ma l'incrocio è completamente intasato, noi ci infiliamo a metà incrocio per bloccare tutti? Insomma, a volte basterebbe poco per stare attenti, per essere educati, cortesi e magari sentire quel senso di soddisfazione interiore quando arriviamo, che ci dice, sai, ho guidato bene, sono stato educato, non mi sono arrabbiato, arrivo che sono più riposato di quando sono partito. In genere non succede, io parlo bene ma forse non razzolo altrettanto bene, come si dice, e quindi a quel punto mi trovo ad arrivare più stanco di quando sono partito, perché se mi stresso. Professor Cavedini, lei che gli automobilisti li ha studiati, li conosce, possiamo fare un po' un profilo degli automobilisti? Abbiamo già sentito degli interventi dei nostri ascoltatori, un modo, no, di affrontare lo stress al volante. Proviamo a dire, cioè il tipo di automobilista, in modo che i nostri ascoltatori, anche noi, perché anche lei è un automobilista, anche se gli automobilisti li studia, così ci riconosciamo e vediamo i lati positivi e i lati negativi. Beh, allora, tanto per cominciare, diciamo che le diversità stanno anche un pochino nel modo con cui ci mettiamo al volante, no? Al di là del come siamo fatti, anche le condizioni di benessere psicofisico, di alimentazione, di gestione, non so, del fumo mentre siamo in macchina, sono tutte variabili che interferiscono in qualche modo con la modalità con cui reagiamo alle problematiche di guida. Direi che da una parte abbiamo il profilo dell'automobilista molto stressato, di quello che in qualche modo, come abbiamo detto sin qui, tende ad avere nei confronti del mondo esterno un atteggiamento sempre molto rabbioso, che esprime anche con una tipologia di guida molto, molto scattante, molto grintosa, con delle espressioni verbali o colorite del viso. Ed è evidente che questo, come dire, non va bene, no? Perché da un certo punto di vista, se è buona cosa liberarsi un attimino dalle tensioni, poi si rischia di avere tutta una serie di ripercussioni tipo fisico. Dall'estremo opposto, diciamo che invece mettiamo un profilo di un guidatore che è invece molto più flegmatico, molto più disponibile, ma spesso e volentieri perché ha rinunciato in qualche modo ad arrabbiarsi. E anche questa è una modalità con cui le emozioni si chiudono dentro e non è, le ingabbiamo dentro di noi, e non è buona cosa farlo. Direi poi un terzo profilo, giusto così per chiudere il discorso, che è quell'automobilista che si arrabbia, ma si arrabbia non per una rabbia personale, ma perché in qualche modo è un guidatore razionale che porta avanti il concetto della legalità, del codice della strada, e quindi in qualche modo si arrabbia laddove vede delle ingiustizie, anche se non riguardano direttamente lui. Allora, se state per arrabbiarvi, se siete lì che soffocate la rabbia o avete già tirato giù il finestrino, sbadigliate. Sbadigliare è un eccellente esercizio antistress. Fingere di sbadigliare genera automaticamente i riflessi fisiologici di rilassamento di uno sbadiglio autentico. Il principio è semplicissimo. Ogni volta che sentite la tensione interiore salire e invadere il vostro spirito, aprite la bocca e sbadigliate. Più lo fate e più in fretta ritroverete sia il rilassamento fisico sia la disponibilità dello spirito. Tratto da Quaderno d'esercizi per rimanere zen in un mondo agitato. Facciamoci dei begli sbadigli allora. Intanto chiamate l'800 24 00 24, come Savino che ci chiama da Bari. Buongiorno Savino. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Io diciamo faccio parte forse del terzo profilo di cui si parlava, un guidatore abbastanza razionale, anche se costretto, insomma, diciamo, per via lavorativa a viaggiare molto, tantissimo. Proprio adesso sono in autostrada, mi sono fortunatamente accostato in una piazzola di sosta, e quando vedi le ingiustizie o comunque magari sei davanti ad un autovelox, rallenti, la gente che ti è a 10 centimetri di distanza inchioda, rischia di farti fare magari anche un tamponamento, un incidente, pericolo tra l'altro per se stesso e per gli altri, comincia con una raffica di brutte parole, te ne dice di tutti i colori, ti insegue, ti abbaglia e vuole aver ragione. Allora lì io mi trasformo, divento la belva umana e diventa veramente difficile un attimino sostenere questa situazione quando purtroppo, ripeto, essendo costretto per lavoro a viaggiare davvero tanto, insomma, ti capita proprio ogni mezz'ora, un'ora sulla strada, insomma, che ce ne sono veramente troppi, Nicoletta, credimi, troppi di incompetenti alla guida, io li chiamo così. È gentile, Savino, perché arrivano dei messaggi con delle descrizioni, non posso leggerle. Grazie Savino. Giampiero da Vercelli, buongiorno a lei. Salve, sono Giampiero, saluti a tutti. Allora, io sono praticamente un autista flemmatico, sono 34 anni che faccio l'agente di commercio. Percorro qualcosa come 80.000 chilometri all'anno. In questo momento praticamente sono alle porte di Torino, mi sono fermato ovviamente, e il mio, diciamo, modo per non sentire la fatica alla guida eccetera eccetera è: tanto anche se mi arrabbio non cambia nulla, tanto vale arrabbiarsi e ascoltare Radio 24. Giampiero, un bacio a Giampiero che ci chiama da Vercelli alle porte di Torino, che è anche la mia città. Oggi tanti consigli, ci racconteremo anche come, chi e come, perché ci arrabbiamo. Intanto io vi do un consiglio quotidiano, che è quello di andare sul nostro Daily Lab, il nostro laboratorio del benessere. Anche potete trovare dei consigli molto semplici, basta un clic, andate sul sito di Radio 24, cliccate sul Daily Lab e seguite con attenzione i consigli dei nostri esperti. Ce l'ho a morte con tutti, prima di tutto con tutti gli altri automobilisti dove cazzo vanno sempre in giro con la macchina. A me la macchina serve, io c'ho da fare, devo andare in giro, dovessi anche andare a prendere il pane ci vado in macchina, su questo non ci piove, ma gli altri. Io li vedo alla mattina, tutti uno per macchina, ma organizzatevi, andate in quattro. Ci sono gli automobilisti che sono nati per farti imbestialire, gli incapaci. Sono quelli che da dietro non vedi neanche la testa. Vedi solo due braccine abbarbicate al volante, sono pieni di tic. Controllano sempre se il freno a mano è tirato. Cazzo controlli, è 8 volte che controlli, non è tirato. C'hanno la moglie accanto che c'ha sempre un triangolino di impermeabile fuori dalla portiera. Vai che c'è verde, vai! Dottor Gargiulo, ma è troppo forte Joelle Dix, perché noi ridiamo, ma succede proprio così? Riesce a dare una rappresentazione perfetta della realtà, di quello che vediamo quando siamo in macchina, e che poi in realtà anche noi tante volte abbiamo il nostro triangolino di impermeabile fuori e quindi non teniamo conto di quello che siamo noi rispetto agli altri. Però ecco, per tornare invece alla salute, prima sentivo dire il problema della difficoltà digestiva stando a lungo in macchina, quindi questo ci comporta il fatto di dover assumere dei pasti più leggeri se dobbiamo guidare a lungo, per evitare quella sonnolenza fisiologica dopo mangiato che ci potrebbe creare dei grossi problemi o che al minimo potrebbe darci quel fastidioso mal di testa che poi rende un viaggio, rende un trasferimento in macchina un vero e proprio incubo. Affrontare con un pochino più di serenità, e questo è un altro dato estremamente importante, e poi ecco anche importante il fatto di, se dobbiamo fare un viaggio lungo magari, fermarsi ogni tanto per riattivare la circolazione degli arti inferiori, sia di chi guida sia di chi è seduto vicino a chi guida. Non dimentichiamo che anche il passeggero può risentire di molti svantaggi, certo, dello stare in macchina. Ed è anche fonte di stress, perché Giampaolo mi scrive: mia moglie frena per me e mi dice sempre stai attento, è stressantissimo. Anna da Torino, buongiorno. Buongiorno. Anch'io lo faccio, un po'. Dico, frena, stai attento, guarda. L'hai mai visto questo qui? E poi, prima o poi mi scaricherà. Comunque, Anna, benvenuta. Allora, io volevo dire che sono complementare a tutti questi signori, perché io sto d'incanto in macchina, per me è un'oasi. Premetto che lavoro moltissimo e sono madre di 4 figli, per cui per me quando arrivo in macchina è il momento di riposo, mi rilasso. Mi diverto ad ascoltare le cose che mi fanno ridere. Quando esco dall'ufficio alle 6:30 mi sento la zanzara, mi mette di buon umore fino a che arrivo a casa e riprendo il mio secondo lavoro, per cui per me è veramente un momento di pace, di tranquillità, nessuno mi disturba, non mi interesso degli altri e faccio di tutto per essere gentile e carina con tutti quanti. Soprattutto quindi, perché c'è Radio 24 che si può ascoltare e le tiene compagnia anche in macchina. Buongiorno ad Alessandro da Modena, grazie Anna. Alessandro, buongiorno. Niente, io volevo semplicemente dire, sono innanzitutto un guidatore flemmatico anche io. Faccio 30.000 km all'anno in viaggi brevi, più o meno. Niente, volevo dire che io per ammassare il tempo quando sono in macchina, una tecnica, mi porto sempre dietro una macchina fotografica. Se trovo dei bei soggetti da fotografare, si accosta, dalle nuvole, immagino. Si accosta. Accosto, lo trovo proprio da fermarmi, insomma, anche se il tempo a volte stringe. Però insomma colgo l'occasione per fotografare da cose che possono essere fenomeni atmosferici, begli squarci, cerco di fare magari strade basse, insomma cerco di vivere questi viaggi non come degli spostamenti che sono perdite di tempo, ma di cogliere proprio, insomma, anche se magari il tragitto è sempre quello. Alessandro, allora se oggi lei viaggiando scatta una foto, ce la manda? Certo, va bene, me la mando volentieri. Ok, allora aspettiamo la foto di Alessandro da Modena e andiamo ad Ancona perché c'è Marco, sta guidando. Marco, buongiorno. No, non sto guidando, innanzitutto salve a tutti quanti. E niente, io volevo portare la mia classica esperienza da istruttore di autoscuola. Ah, ecco, molti ascoltatori mi stanno scrivendo che si guida molto male e quindi bisognerebbe fare una formazione. Viene alla base. Ecco. Però purtroppo la situazione è molto cambiata dagli ultimi anni a questa parte. perché ovviamente la circolazione ha visto l'ingresso di numerosissime auto, cose che 20 anni fa non c'erano. E quindi, sa, essendo la circolazione aumentata a dislivello, in strada ci sono tutte le categorie che prima l'esperto ha menzionato. Certo, ma Marco, lei che è un istruttore di guida, ci dia due consigli, due raccomandazioni. Il consiglio è avere tanta pazienza quando si guida, perché comunque per strada possiamo trovare di tutto, sia dalla persona che va molto lenta, sia dalla persona un po', ecco, maleducata, che suona subito il clacson appena non ripartiamo dal semaforo e via dicendo. E bisogna avere anche sempre un comportamento civile, e quello è la cosa principale che deve essere insegnata sia al neopatentato, quindi al diciottenne, e noi ci impegniamo tanto per questo, e anche dalla famiglia, dai genitori che insegnano a guidare questi neopatentati, perché saranno i guidatori del futuro. Grazie Marco. Ma dottor Gargiulo, se la rabbia possiamo sentirla crescere, provare a trattenerla, superarla, abbiamo avuto testimonianze di molti ascoltatori, no? Che fanno di necessità virtù e che prendono le ore trascorse in macchina come un'occasione, no? Per stare anche bene. C'è un nemico molto serio che minaccia l'automobilista, è il colpo di sonno. All'altezza di vari bondi sento che le palpebre mi si chiudono. Mi sforzo di tenere gli occhi aperti e restare concentrato sul pandemonio circolatorio che ho davanti a me. Riesco a proseguire per qualche chilometro ancora, ma mi rendo conto che ormai sono in preda di questa sensazione di ingresso-uscita dalla fasia, in cui perdo i sensi per qualche secondo e poi torno in me come se mi stessi svegliando da un sonno profondissimo. Penso che un incidente stradale è proprio quello che mi manca nella situazione in cui mi trovo. Poco dopo il nodo di Malaska mi trovo in una piazzola di sosta. Parcheggio e reclino il sedile. Non faccio in tempo a chiudere gli occhi che mi addormento. Tratto dalla lunga estate calda del commissario Caritos. Dottor Gargiulo, una descrizione direi perfetta, no? Del colpo di sonno, che invece è un disturbo che noi spesso cerchiamo di contrastare, dire ce la faccio, no? Ed è l'errore più grosso, perché quel dire ce la faccio, quel cercare di mantenere l'attenzione che in quel momento non si riesce a mantenere, è veramente rischioso, perché quando poi arriva il colpo di sonno e quindi la testa cade proprio in avanti, perdiamo completamente conoscenza. In quei casi il consiglio migliore è fermarsi in una piazzola di sosta, se non abbiamo un autogrill dove poterci fermare, magari consumare, prendere un caffè, fare una passeggiata, bere anche dell'acqua, e sport è sufficiente, perché anche un po' di disidratazione che porta a questo colpo di sonno, e se no chiudersi, accostarsi, chiudere la macchina e riposare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è necessario per recuperare le nostre energie e ripartire con l'attenzione necessaria. A volte quei 20 minuti ci salvano una vita. Professor Cavedini, c'è una situazione opposta, abbiamo detto il colpo di sonno, ma a volte, e sono stati proprio studiati, ci sono spesso proprio durante la guida che si manifesta un attacco di panico, un forte attacco di ansia, e anche questo viene all'improvviso. Sì, l'attacco di ansia capita spesso alla guida, proprio perché alcune condizioni legate alla guida, come guidare in autostrada, le gallerie piuttosto che non i tornanti, sono dei fattori che in qualche modo predispongono alla crisi. In quel momento forse la cosa migliore da fare è, se possibile, fermarsi, perché al di là di tutto guidare in grosso stato di agitazione non è buona norma di sicurezza per sé e per gli altri. Mantenere la calma, perché l'attacco di panico, come è iniziato, sicuramente finisce. Fare un po' di movimento, se possiamo in sicurezza scendere dalla macchina, perché la tensione muscolare si scarica e l'attività fisica riduce l'ansia, e calma, in maniera calma, respirare in maniera regolare fin tanto che la crisi di ansia non è passata. A quel punto possiamo serenamente ripartire. Giancarla ci chiama da Crema. Giancarla, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la bella trasmissione. Grazie. Io volevo segnalarvi la pena, il disagio costante di chi è trasportato da esseri assolutamente nervosi, che vogliono prevaricare gli altri e che quindi guidano al limite del codice della strada, quindi rispettando al pelo le distanze di sicurezza, superando i limiti di velocità. Io regolarmente, quando viaggio con queste persone, nella fattispecie mio marito, oltre che litigare furibondamente, scendo con i muscoli delle gambe così contratti che mi fanno veramente male. Vorrei avere qualche consiglio per poter convivere con queste persone. Allora, facciamocelo dare dai nostri esperti, ma soprattutto dai nostri ascoltatori. Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente incazzato come una bestia. E tutti a dirmi, ma per forza, sei sempre teso a guardare la strada. Prenditi un bel navigatore, ma neanche per sogno. E invece ormai è diventata una moda, se non hai il navigatore non sei nessuno. Solo che lo prendono anche quelli che, tipo quello che dall'81 usa la macchina soltanto la domenica per andare a pranzo dai suoceri e ha preso il navigatore. Che verrebbe da chiedergli, scusa, ma per cosa l'hai preso? Perché c'ha tante funzioni, tipo mi dice che tempo trovo quando arrivo, ma che tempo vuoi trovare? Che stai andando dai suoceri che stanno a 2 chilometri. Ma che aria, a proposito di tempo, che aria tira nella vostra automobile? In linea con noi abbiamo il dottor Mauro Mocci. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a voi tutti e anche agli ascoltatori. Medico dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Allora, dottor Mocci, abbiamo visto che insomma, in alcuni casi per molti di noi la tensione emotiva sale quando siamo al volante. Ho stilato un po' sulla base dei messaggi che mi sono arrivate le ragioni, no, che ci fanno arrabbiare di più. Sicuramente l'utilizzo del cellulare da parte degli altri, poi chi non usa le frecce, quelli che partono tardi al semaforo, e almeno queste sono le prime tre. Poi ce ne sono diverse, tra cui anche appunto l'ascoltatore, forse è il marito della nostra ascoltatrice che chiedeva aiuto, che dice mia moglie che frena per me e mi dice stai attento. Ma dottor Mocci, lei ci deve aiutare a rendere l'aria della nostra automobile più respirabile, magari ci ossigena meglio il cervello e quindi ci evita delle arrabbiature inutili. Esatto, perché purtroppo l'auto è piccola e quindi se ci sono degli inquinanti noi continuiamo a rirespirarli e questo può condizionare anche il nostro stato di umore, perché purtroppo all'interno dell'auto, oltre alle sostanze che entrano dall'inquinamento esterno e poi vanno a finire dentro, abbiamo anche quelli che noi mettiamo. E allora consigli molto pratici. Intanto dobbiamo sostituire i filtri dell'aria, assolutamente obbligatorio farlo almeno una volta all'anno, sia che sia aria condizionata e non, perché questo ci consente di far entrare meno inquinanti. Noi conosciamo ormai gli inquinanti, le polveri, le sostanze. Io pensi che non l'ho mai fatto. Assolutamente va fatto, e poi non solo una volta all'anno, ma secondo che tipo di strada si percorre, noi consigliamo di farlo addirittura ogni 10-15 mila chilometri, perché se lei percorre una strada molto inquinata o molto polverosa, i filtri potrebbero, quello che hanno accumulato, se non filtrano più è inutile, lo fanno entrare dentro. Una buona pulizia dell'auto è importante, ma deve essere fatta solo con l'aspirazione. Io dico spesso, attenzione, non utilizzate prodotti lucidanti, pulenti, per cruscotti, perché sono sostanze chimiche che noi riteniamo dentro l'abitacolo e poi questi ci ritornano, perché con il caldo, con l'evaporazione, rimangono nella macchina. Assolutamente da evitare sono i deodoranti. E guardi, anche questo, per quello che riguarda il nervosismo, l'irritazione, possono giocare un ruolo importante, perché questi deodoranti che spesso vediamo nelle macchine, che danno l'aspetto del buon profumo, in realtà sono delle sostanze chimiche per il 99%, neanche quelle, alcune naturali, potrebbero dare problemi. Allora, queste sostanze chimiche che vanno a provocare nausea, possono dare del vomito, possono dare mal di testa, arrossamenti agli occhi, prurito al volto, possono rendere le persone più nervose e quindi magari inconsapevoli che sia questo, pensano che sia la moglie o il marito, ma in realtà sono loro che ci provocano questo. Quindi anche lei, dottor Mocci, dà un consiglio a Giancarla. Magari il marito è così nervosetto perché un deodorante. Magari è un deodorante, oppure la macchina viene pulita con delle sostanze che rimangono, che gli danno un po', gli danno un po' alla testa. E un'altra cosa, il fumo. Assolutamente da vietare il fumo in auto, non solo quando ci sono le persone a bordo, ma anche quando non ci sono, perché qualcuno dice ma io non fumo quando c'è mia figlia. Fumo soltanto quando non c'è, ma poi la bambina sale e si respira tutto quello che, perché le particelle però vanno sul fondo e quando noi attiviamo il ventilatore distribuiamo un aerosol. Grazie dottor Mocci per essere un ultimo consiglio brevissimo: se parcheggiate la macchina al sole lasciate un filo di finestrino aperto, così le sostanze potranno in qualche modo uscire, perché con il calore evaporano e voi quando entrate ve li respirerete tutti. Quindi alcuni consigli pratici, ma che potrebbero essere importanti. Grazie dottor Mocci, è stato davvero gentile. Intanto arrivano molti dei vostri consigli per Giancarla, ad esempio di cambiare marito, di prenderne uno più giovane. Dottor Gargiulo, sono assolutamente d'accordo, era quello che pensavo anch'io. Però no, è difficile un po', no? Trovarli. Beh, andare no, in bici, chiedere, al marito magari di prendere un tandem. Potrebbe essere un'idea per fare anche dell'ottima attività fisica, e quindi ecco l'altro aspetto estremamente importante, l'uso della macchina è vero che provoca dei danni diretti, ma può provocare anche dei danni indiretti. A volte usiamo la macchina anche per tragitti brevi, dove una passeggiata potrebbe essere molto più salutare. Partendo magari qualche minuto prima arriviamo in buona condizione fisica, miglioriamo i metabolismi dei grassi, gli zuccheri, quindi lasciare la macchina qualche volta ci può tornare utile da tanti punti di vista e anche per quello che riguarda l'apparato cardiocircolatorio. Noi spesso ci arrabbiamo guardando quello che fanno gli altri, ma i movimenti dei nostri occhi sono molto importanti, sono stati studiati perché i movimenti rapidi, improvvisi, possono avere una relazione molto stretta sulla sicurezza della nostra guida. Le sta studiando il professor Guidetti. Buongiorno professore. Buongiorno. Responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare all'ospedale Ramazzini di Carpi. Noi abbiamo già dato questa notizia di questo nuovo modo di guidare, no? Sì, a suo tempo ne abbiamo parlato. E si tratta sostanzialmente di questo. L'osservazione parte dal fatto che i piloti esperti sì, si comportano in modo diverso dai soggetti non esperti. Addirittura una ricerca italiana ha documentato di recente che attivano diversi circuiti cerebrali. Cioè, è proprio evidente che si tratta di un altro modo, un'altra strategia per controllare visivamente l'ambiente circostante. Allora è stata messa a punto questa tecnica che consiste sostanzialmente nell'imparare a controllare i movimenti del capo e degli occhi con esercizi specifici e poi allenarsi a fare questo nella guida per ridurre il numero dei movimenti rapidi degli occhi, perché durante i movimenti rapidi degli occhi le immagini non arrivano corrette, diciamo, al cervello, non arrivano affatto, e questo quindi rende più pericolosa la guida e meno performante anche per chi dovesse avere attività sportive. È chiaro che per questo tipo di discorso occorre imparare, quindi sono esercizi specifici, un allenamento specifico, tutto questo si fa con dei preparatori adeguati che insegnano queste tecniche. Quindi imparare si può, professor Guidetti. Poi si dovrebbe anche, perché la sicurezza non è solo di chi guida, ma anche di chi gli sta attorno, nel senso che certo, chi sbaglia nella guida può provocare dei guai. Ci sono ulteriori notizie, le trovate sul nostro sito. Intanto che ringrazio i miei ospiti e ringrazio voi, vi ricordo che a piedi o in macchina, senza arrabbiarvi o arrabbiatevi come volete, domenica però andate in edicola, esce infatti il quinto volume della collana I racconti d'autore. Questa domenica Le metamorfosi di Kafka, a soli 50 centesimi in più oltre il quotidiano. Per oggi è tutto, vi saluto, ringrazio i miei ospiti, appuntamento a lunedì. Essere e benessere.